qui. Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costellazione, da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché la mia vista vede, è una lente naturale. E ho fantasia e posso anche volare, la fantasia lo sai ti fa volare. Guarda stelle, guarda, in questo mare di stelle mi perderò con te. Guarda stelle, guarda, è un cielo di fiammelle, nel buio più non c'è. Stacco da terra ad immaginare, da qui chissà se c'è un mistero grande da scoprire. Da qui una libera preghiera per una pace da inventare. E ho fantasia e posso anche volare, la fantasia lo sai ti fa volare. Guarda stelle, guarda, in questo mare di stelle mi perderò con te. Guarda stelle, guarda, è un cielo di fiammelle, bruciano per te. Sotto il cielo la terra, ognuno una stella, una speranza sospesa tra la scienza e la guerra. Una speranza sospesa tra la scienza e la guerra. Guarda stelle, guarda, in questo mare di stelle mi perderò con te. Guarda stelle, guarda, è un cielo di fiammelle, è un cielo di fiammelle.